Unilibera presenta Lucciole nelle tenebre. Ciao a tutti, bentornati a una nuova puntata di Lucciole nelle tenebre. Io sono Eleonora, una vecchia conoscenza per i tre che ci ascoltano. Anch'io sono lei, una vecchia conoscenza, sono Flavia. E qui oggi abbiamo anche un neo adepto che abbiamo costretto a raggiungerci negli studi di Radio Città Fujiko. Ciao, io sono Carmelo. Benissimo, e dopo questa nuova conoscenza, Carmelo, che è stato coartato a venire qua, vogliamo riprendere il tema della puntata scorsa. La puntata scorsa abbiamo visto che era molto vicina alla strage di Charlie Hebdo a Parigi, abbiamo parlato del diritto alla satira. Oggi ci volevamo collegare a questa puntata con un tema un po' diverso, che è quello della costruzione del nemico nei media. Chiaramente ne parleremo probabilmente in modo molto generico, però ci interessava approfondire questo tema proprio perché, al di là della strage, che chiaramente è stato un evento veramente tragico, molto importanti secondo me sono state le reazioni che abbiamo avuto dopo. Le reazioni che ci sono state alla strage sono state di vario tipo. Certo, la solidarietà è andata per la maggiore per un paio di giorni, poi sono cominciate le critiche. Eravamo tutti Charlie per un paio di giorni, poi è finito e sono tornati fuori quelli che non lo erano tanto, quelli che vedi tutti gli islamici sono uguali, ed è proprio questo di cui vogliamo parlare. Il problema che è venuto fuori alla fine dopo questa strage è stato che il musulmano è tornato a essere il nemico numero uno, non che nei media si fosse mai abbandonata questa visione, però dopo la strage sicuramente è tornata in auge perfettamente. E per questo motivo avevamo, anche analizzando testate giornalistiche di alto rilievo, quali Il Giornale, non so chi di voi lo legga, ma Libero, anche quello abbastanza rilevante secondo me, tutte voci molto eminenti del giornalismo italiano, o anche voci di politici rinomati, la Le Pen, Salvini, si sono tutte espresse prima per Charlie chiaramente e successivamente contro gli islamici, che sono di nuovo percepiti come dei mostri, e c'è stata una richiesta internazionale agli islamici di scuse. Generalizzare da più punti di vista, sia individuando il problema nei soli musulmani, ma sia richiedendo anche le scuse da parte di un'identità di un individuo che formalmente come singolo non esiste. Questo infatti l'abbiamo percepito molto come un problema, perché richiedere all'islamico di scusarsi alla fine è equivalente a pensare che l'islamico sia di per sé un terrorista, quindi l'islamico tipo sia il terrorista che si fa esplodere o va a sparare nelle redazioni dei giornali, mentre l'islamico buono è un'eccezione che deve farsi vedere, perché così magari i cittadini occidentali buoni e bravi potranno tranquillizzarsi rispetto a questa inquietante religione. Questo non ci sembra giusto, chi siamo noi per giudicare? Però chiaramente chiedere a un intero gruppo religioso, che poi non è molto spesso un gruppo per forza coeso, perché come tra i cattolici in Europa ci sono tante divisioni, tanti punti di vista, e chiedere quindi a questo gruppo che non esiste di fatto di scusarsi è creare un gruppo che è una ghettizzazione alla fine, che gli stessi islamici molto spesso nelle nostre comunità non vogliono e non cercano di creare di per sé stessi. Qualcuno ha fatto un po' il parallelismo, sarebbe stato come dopo un attentato di mafia chiedere a tutti i siciliani di scusarsi. Adesso individuare in una singola identità, in questo caso culturale / religiosa, perché l'Islam è vero che ha un'identità religiosa, ma non possiamo intenderla soltanto in questo senso, delle scuse per un attentato terroristico proveniente da singoli o comunque da un gruppo ben individuato, che chiaramente non rappresenta l'intero gruppo, sembra alquanto stupido. Sarebbe stato più sensato forse chiedere le scuse direttamente ad Al-Qaeda. E dato che ci siamo comprati tutti internazionale la settimana scorsa, non solo per il fumetto di Zero Calcare, molto bello, molto valido, ma anche per leggere gli articoli comunque, volevamo fare una citazione da un articolo. Sì, c'è stato un articolo che ci ha colpito particolarmente un articolo di Abdelkader Ben Ali, uno scrittore olandese di origine marocchina, che dava il proprio punto di vista da musulmano su, diciamo, questa reazione di giovani musulmani europei, questa reazione molto violenta che poi è sfociata nell'attentato alla redazione di Charlie Hebdo. Partendo da un suo vissuto personale come giovane musulmano che veniva in un certo senso discriminato, isolato nella propria comunità di riferimento, Ben Ali cerca di giustificare in qualche modo la reazione di questi giovani musulmani che reagiscono alla discriminazione, all'isolamento, alla mancanza di integrazione in paesi in cui sono essenzialmente nati e di cui hanno la cittadinanza, che persiste generazione dopo generazione. In Francia, lo possiamo dire con certezza, la comunità musulmana è presente e risiede in Francia da generazioni, eppure non è ancora avvenuto quel processo di integrazione che avrebbe portato questi giovani musulmani a sentirsi francesi piuttosto che olandesi o italiani. E Ben Ali spiega come questa rabbia, questa mancanza di integrazione si è sfociata in una ricerca di costante di valori che sono stati ritrovati da questi giovani nel fondamentalismo islamico, nell'ISIS, nel terrorismo, poi sfociando proprio, diciamo, a questa violenza estrema. Una frase che mi ha colpito nell'articolo è stata questa. Ben Ali dice che ogni società aperta è una minaccia per chi è religioso. E questa mancata accettazione della religione musulmana da parte della società, di una società europea tipica, non ha fatto altro che causare rabbia che poi è sfociata in violenza. Quello che è successo a Parigi non ha poi tanto a che fare con la satira e con l'umorismo, è stata soltanto una reazione che ha trovato un proprio capro espiatorio. E quindi praticamente Ben Ali chiude dicendo che i cittadini musulmani sono in primis europei, sono una presenza ormai stabilita e consolidata e dobbiamo soltanto accettarlo, anche con la loro religione, rispettandola. Bene, ora vi lasciamo con la canzone dei Decemberist, Rocks in the Box. The rocks in the box, get the water right down to your socks. This bulkhead's built of fallen brethren bones. We all do what we can, we endure our fellow man, and we sing our songs to the head frames, kicks and moan. And it's 1, 2, 3 on the wrong side of the lee. What were you meant for? What were you meant for? And in 7, 8, 9, you get your shuffle back in line. And if you ever make it to 10, you won't make it again. And if you ever make it to 10, you won't make it again. And you won't make a dime on this gray granite mountain mine. Of dirt you're made, and the dirt you will return. So while we're living here, let's get this little one thing clear. There's plenty of men to die, you don't jump your turn. And it's 1, 2, 3 on the wrong side of the lee. What were you meant for? What were you meant for? And it's 7, 8, 9, you get your shuffle back. If you ever make it to 10, you won't make it again. And if you ever make it to 10, you won't make it again. Make it to 10, you won't make it again. And if If you ever make it to 10, you won't make it again. And if you ever make it to 10, you won't make it again. Voce automatica che recita i post di Salvini. Mi mancava l'immigrato che, dopo avermi insultato, mi chiede: cosa farai se tua figlia si innamorerà di un clandestino? Mia figlia sarà libera di innamorarsi di chi vorrà. Nel frattempo il suo papà, al governo, avrà espulso e fermato tutti i clandestini. Sempre con la mia voce polentona. Piscina di Sesto San Giovanni, vicino a Milano. Corsi di nuoto presso le donne islamiche, da ieri in realtà. Integrazione? No, per me è una follia. Una cultura che discrimina le donne non può avere spazio. E dopo l'app Carmelo legge Salvini, io consiglierei di inserire tutte queste registrazioni su Dubsmash e fare i video in cui noi imitiamo Salvini. Direi che potrebbero diventare virali, lo proporrò in regia. Comunque, dopo aver avuto questa bellissima possibilità di informarci sul Salvini pensiero, che è sempre un'emozione forte, ma intanto direi che l'avvento dei social media e la possibilità dei politici di utilizzarli ci ha dato grandissimo spazio alla risata. Cioè, io sono contentissima di questa possibilità, perché ogni giorno ce sono, n'è una nate anche pagine Facebook esilaranti in materia, ce ne sono svariate su Salvini, ma come non citare il nostro amato Gasparri, parlando anche di Alemanno. Cioè, possiamo scegliere la nostra vittima del giorno. Comunque, visto che si parlava di immigrazione e di costruzione del nemico, soprattutto nei media, abbiamo pensato che potevamo collegarci anche a un fatto appena più recente della strage di Parigi, che coinvolge di più l'Italia, perché abbiamo notato che molto spesso questa paura del nemico, dell'immigrato, ora soprattutto dell'immigrato islamico in più, c'era tutto questo immigrato, si traduce anche in un certo odio molto immotivato, se ci pensiamo con un po' di razionalità, per chi lo aiuta questo immigrato. E qua si collega Gasparri. Gasparri la scorsa settimana, no, forse un po' più di tempo fa, chi ha dato Twitter a Gasparri, innanzitutto vorrei proprio saperlo, chiudetegli il profilo perché non si può sentire. Quando sono state liberate Greta e Vanessa, una vicenda che ha avuto molto scalpore per le passate settimane, Gasparri se ne uscì con un tweet alquanto agghiacciante. Prestazioni sessuali con i rapitori? Consenzienti. Scusa, consenzienti, sì. Ricordiamocelo, perché un dettaglio non irrilevante. E noi paghiamo. A parte la fonte, diciamo, a cui Gasparri ha fatto riferimento, che era un Piove blog. Governo ladro. E lo consulta il vicepresidente del Senato. E lo cita. E si giustifica. Si giustifica. Quindi, a parte il discorso sul riscatto che ha suscitato tantissime polemiche, un riscatto di cui effettivamente non si sono avute notizie ufficiali, quindi l'ammontare non è stato, diciamo, ben precisato poi dalle istituzioni, e tutta la questione di questo rapporto consenziente che le ragazze avrebbero avuto con i loro rapitori, cioè, ha destato più scalpore di tante altre notizie molto più importanti su cui potremmo concentrarci. A parte che denota anche un certo maschilismo, un certo interesse a valutare la vita sessuale delle persone, di cui in teoria non ce ne dovrebbe fregare nulla. Però, come parlavamo appunto della creazione del nemico che è stato individuato nel musulmano, ma appunto viene criminalizzato anche chiunque si possa considerare amico del musulmano, chi fa volontariato, chi decide di spendere il proprio tempo cercando di aiutare, cercando appunto di impegnarsi in una missione umanitaria che dir si voglia. E addirittura è stato fatto comunque un collegamento che secondo me poi aveva ben poco senso, cioè è stata collegata la situazione, la liberazione delle due ragazze con la questione dei Marò, questione che non ha alcun collegamento. I due Marò sono accusati di omicidio e risiedono in questo momento si trovano in Italia. Uno dei due. Uno dei due. Comunque è una questione che non ha alcun tipo di collegamento. E sì, su Facebook se ne è letta di ogni su questa questione, facendo vedere quanto la gente facilmente possa criminalizzare una situazione, una persona, una scelta senza alcun senso logico. Diciamo che per quanto si possa criticare una scelta che può essere stata ingenua, una questione criticare, una questione inneggiare allo stupro, alla violenza, alla morte, come è stato fatto per queste due ragazze, solo perché si sono alleate con il nostro nemico, questo fantomatico nemico di cui molto spesso non si capiscono bene i contorni. E ma stemperiamo un po' i toni, adesso ci ascoltiamo Substract con Pharaohs. Abbiamo un buffet doppio, La nostra rubrica culturale che chiude il nostro programma, infatti oggi vedrà due nomi molto importanti. Uno è quello di Robert Capa, importantissimo fotografo, cofondatore della Magnum, e l'altro è un gruppo molto in voga ultimamente, sto parlando degli Al J, che si esibiranno il prossimo 14 febbraio a Milano, unica data italiana, e che a settembre hanno pubblicato il loro secondo album. Bene, non lo sapevo nemmeno io fin quando Carmelo non me l'ha spiegato di pomeriggio, ma questi due nomi sono legati da un terzo nome, Taro. Sì, infatti, Taro è la compagna di Andrew Friedman, e insieme a lui, per sfuggire a tutte le leggi razziali che cominciano a diffondersi nella Parigi degli anni 30, si nascondono sotto un fantomatico nome, che è quello di Robert Capa. Robert Capa, appunto, testimone del loro amore, e anche un vestito che indossano per affrontare le loro avventure, come quella durante la guerra civile spagnola, in cui però sfortunatamente Taro muore, e che Robert continua a indossare nei suoi futuri progetti per portare avanti sia la sua passione sia l'amore che ha per la sua amata. La canzone degli Alt J fa un balzo in avanti quando Robert Capa è in Indocina per la guerra che è in corso. Il nome di Taro riecheggia nella mente di André, e come ascolterete tra pochissimo, anche nel ritornello di questa fantastica canzone. Alt J, Taro. China gap jumps to 2 feet creep of the road to photo to record me lumps and war. Their ancestors his chance. So Kappa dark after nothing reunited with his egg and with Utah.